Devo confessare che il libro nasce dall'indignazione, nasce dall'incredulità che abbiamo vissuto, abbiamo sperimentato quando abbiamo letto questo romanzo horror di 130 pagine che è la sentenza della Corte d'Assise di Milano sulla vicenda del capo, del torturatore somalo del campo di prigionia di Bani Walid. Penso sia utile riassumere in due parole la vicenda. Si tratta di un processo che nasce dall'individuazione sul territorio italiano, a Milano in particolare, vicino alla stazione centrale, di un cittadino somalo che viene indicato da diversi connazionali come il loro aguzzino, il loro torturatore. Con difficoltà linguistiche, le persone che, i cittadini somali che chiamano la polizia, le forze dell'ordine, fanno capire che la persona che è stata fermata era con loro al campo di prigionia di Bani Walid, che è una località che si trova a 150 km a sud-est di Tripoli, all'interno di un hangar, in uno dei centri di prigionia, diciamo così, non ufficiali, di fatto poi governati da milizie armate, da bande di aguzzini, di schiavisti. La persona era di fatto il gestore del campo, diciamo così, conto terzi, né più né meno come capo del periodo nazista dei campi di concentramento. Le persone lo individuano e, primo dato di particolare interesse, senza cedere alla tentazione della vendetta, della ritorsione, preferiscono chiamare le forze dell'ordine, mostrare i corpi piagati dalle cicatrici, dalle violenze che hanno subito in quel luogo, e da lì parte questa vicenda che viene seguita peraltro da magistrati particolarmente esperti, Presta Boccassini in particolare, la quale in occasione della conferenza stampa dice cose di una certa importanza, cioè che in 40 anni di lavoro lei non aveva mai visto una cosa del genere. Questo per dare l'idea del livello di violenza, del livello di atrocità di cui si parla in questo processo, e che, per tornare alla tua domanda, ci ha lasciato increduli di fronte al sostanziale disinteresse, al sostanziale silenzio che ha accompagnato sia l'indagine sia soprattutto la sentenza. La sentenza è un pezzo di storia che diventa verità processuale, e l'accertamento di una situazione, direi, imbarazzante da tanti punti di vista, e anche dal punto di vista delle autorità italiane, che in realtà indirettamente di quei fatti possono essere ritenute partecipi o complici. E infatti stavo per farti questa domanda retorica, che però, come dire, dalla prospettiva di voi che vi siete letti le carte, avete studiato, fate questo mestiere, è interessante: le responsabilità dell'Italia e dell'Europa in quello che avviene nei lager libici. Beh, la Libia è una cartina di tornasole importante, perché ci dice qual è il prezzo che l'Europa democratica, illuminata, illuminista, razionale, culla dei diritti, è disposta a pagare pur di risolvere il problema immigrazione. Io credo che si viva in una fase di follia mediatica in cui l'immigrazione racchiude su di sé, probabilmente per motivi elettorali, ma non solo, una sorta di magnete di insoddisfazione, di intolleranza, di paure, di ostilità, e questo giustifica il fatto che un continente di 500 milioni di persone vada in crisi nel 2015, quando 1,5 milioni di persone attraversano la rotta balcanica per dirigersi verso la Germania e i paesi scandinavi, nella più totale assenza di risposte, nella più totale impreparazione delle autorità. Questo ha portato ancora di più ad accelerare processi che erano già in corso, in particolare quello che nella letteratura scientifica qualche autore ha chiamato l'esternalizzazione della brutalità, cioè chiamare in causa i guardiani della fortezza Europa, in primo luogo la Turchia e la Libia, realtà peraltro molto diverse, accomunate dalla volontà dell'Europa, e in particolare dell'Italia nel caso libico, dal fatto di essere indicati come i buttafuori delle proprie porte d'ingresso. Quello che è raccontato nella sentenza della Corte di Assise di Milano è in realtà fatto notorio. Non si può certamente sostenere che a febbraio del 2017, quando il governo italiano ha sottoscritto un accordo con la Libia allo scopo di arginare i flussi migratori, la realtà di quello che accade e che oggi, come allora, coinvolge decine di migliaia di migranti nelle carceri libiche, fosse ignota. Si tratta di circostanze assolutamente documentate, le agenzie internazionali, le stesse Nazioni Unite lo avevano documentato in modo incontrovertibile. Ciò nonostante, si è deciso di armare, attraverso mezzi, risorse, motovedette, competenze, questa congerie di autorità più o meno riconosciute che oggi governa quello che una volta si chiamava Libia, che oggi di fatto non è un paese, esponendosi ovviamente a controversie di ogni genere. Basti pensare che l'etichetta con cui si classifica la cosiddetta guardia costiera libica in realtà raggruppa di fatto piccoli centri di potere, piccoli potentati nelle mani di gruppi armati, e alla rule of law si sostituisce la rule rule of arms, cioè la disponibilità di mezzi e di armi, di navi per controllare il Mediterraneo, nella peraltro nuova e discutibilissima zona di search and rescue dichiarata davanti al mare libico, e di fatto consapevolmente armando la mano di chi di quella situazione ne trae un lucro abominevole. Tra l'altro l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione qualche tempo fa accese il riflettore sulla distrazione di fondi destinati alla cooperazione internazionale e distratti, diciamo così, dal governo italiano proprio per il controllo delle frontiere. Quindi, come dire, possiamo parlare di un intero sistema in cui i centri di detenzione sono un tassello, ma poi appunto ci sono gli accordi con le milizie, eccetera, per sostanzialmente fermare i flussi migratori? Sì, la finalità più o meno dichiarata è sempre quella, è tanto banale quanto incomprensibile. Dico incomprensibile in termini peraltro economici e demografici. L'Italia è forse il secondo paese per anzianità, le condizioni demografiche sono note, le condizioni economiche altrettanto, la necessità di manodopera per assumere una posizione completamente distante rispetto a quella dei diritti umani che muove l'iniziativa dell'ASGI e in particolare che sottende l'iniziativa editoriale di questo libro, comunque suggerirebbe, o meglio imporrebbe, la necessità di un flusso migratorio regolare, soprattutto in chiave economica. Ciò nonostante si è disposti, come dicevo prima, a pagare un prezzo salatissimo, ovviamente sulla pelle dei migranti. Faccio un piccolo esempio: quando si è deciso, fra le varie iniziative, anche di fare formazione, perché il personale della Guardia Costiera Libica è stato anche formato in parte in Italia, si è scoperto che in occasione di un incontro precedente organizzato dall'OIM, proprio in Italia, all'interno della delegazione libica che era stata ospitata, invitata e ospitata dalle autorità italiane, era presente anche Abdul Rahman Milad, il cui nome credo dica poco a molti, il cui soprannome forse dirà qualcosa in più perché si chiama Albija. Di fatto questa persona è il comandante della Guardia Costiera Libica di Zawiya. Oggi la Libia ripercorre sostanzialmente uno schema medievale dal nostro punto di vista, di una galassia di città-stato, ciascuna con la propria milizia, ciascuna con il proprio ordinamento, ciascuna con la propria raffineria di petrolio, insomma piccoli centri di potere governati in modo, diciamo, diffuso, decentrato, se vogliamo usare un'espressione un po' articolata, ma di fatto attraverso il potere delle armi. Proprio Albija, uno dei personaggi chiave in questo quadro, di fatto già comandante della Guardia Libica della città di Zawiya, è stato sospeso la scorsa estate a seguito delle sanzioni che sono state adottate dalle Nazioni Unite, che hanno colpito 6 persone, tra cui lui, ritenuti i principali responsabili del traffico di esseri umani. Quindi in questo gioco di specchi, questo teatro di ombre, di maschere, in cui non si sa e non si può sapere chi di fatto approfitta di questa situazione, e voglio dire, non si tratta di speculazioni finanziarie, si tratta di torture, si tratta di sevizie, si tratta di stupri, si tratta di vendite di esseri umani. Le aste documentate dalla CNN sono, se non altro, credo, ancora nel ricordo di tutti. Io credo che obiettivamente questi accordi, la collaborazione con questo o quel gruppo che oggi opera in Libia, nelle acque libiche e sul territorio libico, resteranno come una macchia indelebile nei prossimi anni sul curriculum delle autorità italiane.